Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ci sono poche cose che fanno bene all'ambiente e insieme all'economia, come quando si riesce a trasformare un rifiuto in materia prima. È il concetto alla base del riciclaggio e anche della seconda vita di molti scarti, dal polverino di pneumatico ai gusci delle uova, la tosatura di pecora sarda, che diventano, pensate un po', barriere antirumore, vernici, pannelli isolanti, invece di finire in discarica. Ecco, all'IMA CNR di Potenza, l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale, si potrebbe dire che hanno raggiunto il colmo del riciclaggio, perché sono riusciti a trasformare un rifiuto tossico in un materiale disinquinante. Più precisamente, hanno messo a punto un nuovo processo per trasformare la cenere delle centrali a carbone, che è un rifiuto per l'appunto pericoloso, in un minerale, la zeolite, che invece ha la proprietà di catturare le sostanze inquinanti. Allora, la prima cosa da dire è viva la ricerca, spesso maltrattata e offesa in questo paese con grande facilità e da gente che vale pochissimo. La seconda è il nome degli autori di questa ricerca: Claudia Belviso, Saverio Fiore e Francesco Cavalcante, del gruppo di ricerca Microminerali, Ambiente e Salute. E in linea con noi c'è però la principale ideatrice, Claudia Belviso, che evidentemente deve avere avuto qualche antenato particolarmente bello, deduco dal cognome. Buonasera Belviso. Buonasera, speriamo di sì. Senta, per radio non possiamo confermare. No, infatti, appunto. Dunque, intanto la ricerca ha già dato origine a un brevetto registrato negli USA. Sì, brevetto accettato negli Stati Uniti d'America, perché? Perché è il posto più, diciamo, sfruttabile. Ecco, spieghiamola questa cosa, perché lì sono pieni di centrali a carbone. Certo, perché il brevetto si basa sulla conversione appunto del fly ash, come è stato detto, in zeoliti, e gli Stati Uniti d'America hanno sempre di più un grande problema legato allo smaltimento di questo fly ash, perché sono numerosissime le centrali termoelettriche che bruciano carbone, buone, e fossili in generale. Sì. E quindi la produzione di questo scarto è abbondante. Questo fly ash, che è la frazione leggera delle ceneri che rimangono dopo la combustione, del carbone. Senta, parliamo un attimo di questa zeolite, anzi delle zeoliti, perché sono una classe di minerali che hanno delle proprietà notevoli. Sì, le zeoliti sono tecnicamente degli alluminosilicati idrati, hanno una particolare caratteristica, quindi sono sostanzialmente costituiti da silicio e alluminio prevalentemente e poi altre cationi, che appunto si coordinano a formare una struttura tridimensionale complessa caratterizzata proprio dalla presenza di canali che poi hanno dimensioni diverse a seconda del tipo di zeoliti. Ci sono molte zeoliti e quindi in base a questi canali che appunto possono ospitare diverse molecole organiche. Ecco, inorganiche. Sostanzialmente diciamo che sono un po' delle spugne o dei setacci, sì, vengono anche chiamati setacci molecolari perché... come dire, hanno la capacità di assorbire piccole molecole. Hanno praticamente la capacità di incapsulare e quindi trattenere in questi canali diverse molecole di natura appunto organica e inorganica a seconda della dimensione, quindi quelle più grandi talvolta in relazione al tipo di zeolite possono essere escluse e quelle più piccole possono essere trattenute, da qui il termine proprio di setaccio. E dicevamo, l'applicazione è il disinquinamento, è la bonifica. In che modo si possono utilizzare queste zeoliti? Si possono sparpagliare sul terreno, funziona così? E loro assorbono i minerali o le sostanze inquinanti? Diciamo che l'applicabilità nel campo ambientale è molto vasta. Può essere utilizzata la zeolite per bonificare suoli contaminati da elementi tossici inorganici, quindi metalli pesanti o sostanze organiche, ammendando il suolo, come diceva lei, cioè spargendo e mescolandole. Okay. Ecco, esattamente, mescolandole, in questo modo si sfruttano appunto le caratteristiche di cui abbiamo parlato delle zeoliti. Poi restano lì questi minerali, però incapsulati in questo modo non sono più pericolosi sostanzialmente, no? No, infatti, perché la zeolite è capace appunto di trattenere nella propria struttura l'elemento tossico, che poi può essere mobilizzato soltanto in seguito ad attacchi chimici molto aggressivi. Molto potenti, che distruggono la zeolite ma distruggerebbero anche tutto il resto, insomma, come dire, sì. Se c'è un tale quale attacco chimico su quel terreno, il problema non è quello che esce dalle zeoliti, ma l'attacco chimico. Ecco, quindi si può mescolare col terreno, poi ci sono altre possibilità, molto rapidamente. Possono essere sintetizzate direttamente nel terreno, noi abbiamo portato avanti questo tipo di sperimentazione che Fantastico. È anche molto innovativa, perché formare la zeolite direttamente in un suolo contaminato consente al minerale stesso di incapsulare in posti particolari certo. della propria struttura l'elemento tossico, che è in questo modo ancora meno disponibile se attaccato chimicamente, oppure può essere utilizzata per la bonifica di acque anche in questo caso. Quindi una specie di filtro, diciamo, in un caso si sparge nel terreno, si fa addirittura formare nel terreno questo minerale, oppure si costruiscono dei filtri praticamente attraverso cui si fa passare acqua. E questi filtri sottraggono le sostanze inquinanti. Dunque, la possibilità di ottenere queste zeoliti dalla frazione leggera delle ceneri delle centrali a carbone in realtà era nota. Quello che però voi avete fatto è migliorare moltissimo il processo. Che cosa è cambiato? Che la sintesi è stata effettuata a basse temperature, stiamo parlando di temperature ambientali, quindi comprese tra i 25 e i 45-60 gradi, e l'utilizzo di acqua di mare. Cioè noi abbiamo l'utilizzo di acqua di mare al posto dell'acqua distillata. E questo comporta ovviamente, sia in termini di temperatura più bassa che di impiego di acqua di mare, l'abbattimento di costi per la produzione ovviamente di queste zeoliti. Di fatto erano quelli i due, diciamo, problemi all'utilizzo di questo processo, il consumo di energia per ottenere temperature più elevate e la produzione di acqua distillata. Insomma, quindi eliminati questi due problemi, il processo diventa economico. Certo, se noi consideriamo il fatto che a temperature così basse, quindi parlo di 25-30 gradi, con acqua distillata non si forma la zeolite, non si forma proprio, mentre con acqua di mare noi ne produciamo anche in quantità ingenti, è evidente l'aspetto economico e conveniente del processo. Senta, questo sistema può funzionare solo con le ceneri del carbone o può funzionare anche con altre ceneri? Non lo sappiamo ancora, però le posso dire che stiamo ampliando la nostra sperimentazione per poter utilizzare anche altri tipi di cenere di tipo urbano, in qualche modo legato a... Magari gli inceneritori, no? Esattamente, chiaramente dipende dalle caratteristiche delle ceneri. Chimiche proprio di queste ceneri. Grazie Claudia Belviso. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.